Fino a pochi giorni prima di Natale possedevo un'automobile, la possiedo ancora, ma quel che è il risultato da una concezione del regalo di Natale a dir poco aberrante mi ha privato di gran parte dei benefici connessi al possederla. Era vecchia e malandata, questo è vero. L'avevo salutata la sera prima, ben parcheggiata lungo il marciapiedi, e le avevo augurato una buona notte che poi non ha avuto. Dietro l'insistente incalzare del mio premuroso portinaio, il mattino dopo ho dovuto constatare che gli insulti del tempo e dell'usura erano ben poca cosa rispetto a quelli del presumibile schiacciasassi che nottetempo si era preso cura di lei. Il drammatico simulacro simbolico della mia auto era stato sbalzato sul marciapiedi e squarciato e contorto come quei materiali moderni nelle mani geniali e iconoclaste di uno scultore d'avanguardia. Vetri ovunque, catorci erranti qua e là, una portiera accartocciata ad una cinquantina di metri. Era così finita la lunga epopea della mia automobile e così cominciava quella delle spiegazioni. Spiegazioni con i vigili urbani, con i carabinieri, con il meccanico che lo osserva desolato, con i numerosi passanti che, come avvoltoi sull'animale morente, gironzolavano intorno sempre più dappresso in cerca di brandelli da asportare, perfino con i netturbini che passavano e ripassavano perplessi, attoniti e pur tuttavia morbosi spettatori di uno spettacolo cui, per spirito di condivisione, portavano anche gli amici. Dell'episodio non vorrei serbare eccessiva memoria, non mi farebbe bene. L'unico ammenicolo che ricorderò, e me lo ricorderò molto bene, è che allorché ho dovuto sporgere denuncia dell'accaduto, i carabinieri mi hanno fatto compilare un modulo definito di denuncia per atti vandalici, e che allorquando con il medesimo modulo sono andato alla mia agenzia assicurativa, quella cui sborso fior di quattrini ogni anno, mi sono sentito chiarire che nel loro linguaggio per atti vandalici si intende tutt'altro da quel che è capitato alla mia automobile, e che pertanto, con tutta la ferma gentilezza di cui sono capaci, non mi danno una lira. In attesa che le controversie semantiche fra carabinieri e imprese assicurative si risolvano, il governo pochi giorni dopo ha varato quel pacchetto di norme annuali che, a sentir lui, dovrebbe venire incontro ai miei interessi di cittadino, e che io, nella mia dabbenaggine di cittadino, non sono mai riuscito a riconoscere come tali. Fra queste norme, due in particolar modo hanno attirato la mia attenzione. Allora, la prima batteva sul dente che doleva. Sono stati approvati degli incentivi per far sì che gli italiani acquistino più automobili. Uno esce di casa, si guarda un po' in giro, un po' nelle tasche, si riesce a superare la barriera di gas di scarico e di automobili in coda o parcheggiate una sull'altra, e si chiede: cosa c'è che non va? Cosa manca in questo paese perché si sia tutti più felici? Secondo il governo, evidentemente sorge spontanea e unisona la risposta: automobili, mancano automobili, ce ne fosse qualcuna in più come si starebbe meglio. Ma come? Siamo arrivati al punto che il minimo meteorisma dell'amministratore delegato della Fiat può provocare una crisi di governo qui e un paio di colpi di Stato là, e non se ne ha ancora abbastanza. Se mai c'è stata l'ombra di una strategia consapevole da parte di qualcuno, è quella secondo la logica della quale l'intero paese doveva essere ideato, programmato e realizzato in nome e per conto dell'automobile e della benzina. Il tempio più bazzicato d'Italia, nelle feste comandate come nei giorni feriali, è l'autostrada, sul cui altare peraltro viene immolato il più alto numero di vittime sacrificali dopo quello della Seconda Guerra Mondiale. Quel che un tempo è stato il nostro paesaggio, oggi è plasmato e ricompattato artificiosamente in omaggio alle esigenze di chi dall'autostrada deve ricavare denaro e potere. La definizione di un'uscita d'autostrada è oggetto di dibattiti roventi e di corruzione. Ne discutono i ministri, i generali e gli arcivescovi, che d'altronde non mancano mai di benedire il prototipo nuovo fiammante ai vari saloni dell'automobile. Le malattie da inquinamento automobilistico aumentano a dismisura nel disinteresse di chi ci governa, che, preoccupato del calo delle vendite, calo che avrebbe potuto prevedere da tempo, vista la disoccupazione più nera e le risorse sempre più mal distribuite, invece di incentivare alternative di produzione commisurate alle esigenze sociali, ci mette del suo, e anzi del nostro, per favorire la ripresa di acquisti. Il secondo provvedimento che si è guadagnato la mia attenzione è quello relativo alla diminuzione dell'imposta sul valore aggiunto dal 16 al 10% sulla vendita di carni bovine e suine. Si tratta di una riduzione a tempo, durerà un solo anno ed è stata adottata con lo scopo dichiarato di far superare al settore delle carni la difficile fase congiunturale che si sarebbe creata dopo la vicenda che con Celia Bonaria viene chiamata della mucca pazza. Devo dire che, nonostante tutta la mia esperienza in materia, ne sono rimasto stupito. Stupito soprattutto del fatto che polizia e carabinieri non abbiano immediatamente fatto una retata dell'intero governo e non li abbiano arrestati tutti. Rei confessi e recidivanti. Terrore da bistecca dilaga per Londra è il titolo del mio primo ritaglio sull'argomento ed è datato 15 novembre 1995. Nel brevissimo articolo, ben mimetizzato a suo tempo nel giornale, si riportava il senso di uno studio pubblicato da una rivista scientifica inglese. La catena dell'alimentazione umana era stata contagiata dall'encefalite bovina spongiforme. Chi si era nutrito di carne infetta rischiava di contrarre il morbo di Creutzfeldt-Jakob. Le autorità, con la A maiuscola tuttavia, esibivano scetticismo. Nei mesi successivi l'argomento si è progressivamente arricchito. Abbiamo così saputo che c'erano già stati parecchi decessi, che dal morbo di Creutzfeldt-Jakob non ci se la cava, che l'infezione ce la siamo cercata noi somministrando mangimi impropri, diciamo così, pestiferi agli animali, che il focolaio era di dimensioni enormi e incontrollabili, che i biologi raccoglievano prove su prove sulle modalità del contagio e che le autorità in pubblico festeggiavano allegramente. Anzi, forse per la prima volta al mondo i potenti si riunirono ufficialmente per mangiare insieme un certo tipo di cibo. Assaggiavano bistecche per noi, sorridevano, non stramazzavano al suolo, peccato, e ci garantivano ideologicamente. Mette davvero tristezza sapere che per me, e presumibilmente per molti altri, tutte queste cose non erano affatto nuove. Nel numero di marzo del 95, Le Scienze aveva pubblicato un ampio articolo di Stanley Prusiner, professore di neurologia e biochimica presso l'Università della California di San Francisco, dove raccontava che già all'inizio degli anni 80, ben 15 anni prima, lui e altri avevano messo in guardia dai prioni, ovvero dal materiale proteico che si replica incontrollatamente nel cervello, responsabili secondo loro di quella particolare forma di encefalite che aveva costretto gli allevatori inglesi, zitti zitti, a bruciare oltre 130.000 bovini nel tentativo disperato e pasticcione di arginare la diffusione della patologia. Già a quel tempo, ovviamente, le autorità erano scettiche e all'esistenza dei prioni non erano affatto disposte a crederci. Le colpe dunque sono colpe di lunga data. Per la buona pace dei nostri governanti i prioni si sviluppano lentamente e i biologi prevedono stragi di massa soltanto fra qualche anno. Per ingannare l'attesa, i nostri serafici governanti hanno deciso di vestire ancora una volta i panni degli untori e darsi da fare per aiutare un settore in crisi. Garruli compagni di merende, come direbbe l'onorevole Mancuso, diminuiscono il prezzo della carne. Visto che non ce l'ho più, torniamo per un attimo agli incentivi per l'automobile. Si può consegnare la propria auto anche in condizioni da rottamare e i padroni ti abbuonano 3 o 4 milioni dal prezzo di quella nuova. Bene, a me questo beneficio non tocca. La mia automobile era stata immatricolata 6 mesi dopo di quanto stabilisca la legge. Così non si può dire che le leggi non siano oculatamente mirate contro di me. Mi è stato spiegato dalle gentili impiegate dell'impresa di assicurazione dove mi sono incautamente assicurato che per atti vandalici loro intendono un calcio, uno sfregio con il punteruolo, forse financo una martellata. L'utilizzo di uno schiacciasassi o di una ruspa, il suicidio di un giapponese kamikaze pilota di Suzuki o l'orbita di caduta del frigorifero in disuso fantozianamente lanciato dal settimo piano nella notte dell'ultimo dell'anno non sono propriamente atti vandalici. A pensarci è fin commovente. Nella cultura delle agenzie assicurative resisterebbe un'icologia databile al 400 d.C. o giù di lì. Agli incattiviti sudditi, vi ricordate i vandali? Gli incattiviti sudditi dei vari Gunderico, Gensirico, Unerico, Gandamondo e Trasamondo, impegnati in spasmodici saccheggi del bel paese, no? Fa meraviglia che un vandalo, per essere riconosciuto in termini assicurativi, non debba anche agire a torso nudo.